Storie italiane. La cosa più incredibile. Molto tempo fa, quando la magia era grande amica dell'uomo, viveva un elfo di nome Ciurro. Ciurro aiutava sempre quegli umani che erano coraggiosi nel cuore e avevano lo spirito per fare cose straordinarie. Ciurro vagava di città in città alla ricerca di grandi umani e creava grandi storie. In una di queste città viveva un bel giovane di nome Antonio. Antonio era un orologiaio molto amico di Ciurro. Era generoso, intelligente e un gran lavoratore. Un giorno, il messaggero del re arrivò con un messaggio. Attenzione a tutti! La principessa ha deciso di sposarsi. Chiunque sia in grado di fare la cosa più incredibile avrà la figlia del re in sposa e metà del suo regno. Chiunque desideri esibire il proprio talento è quindi invitato a palazzo domani! La cosa incredibile. È fantastico! Cosa hai intenzione di fare per conquistare il cuore della principessa? Io? Cosa posso fare? Quindi non pensi di poter fare la cosa più incredibile? Sei fuori di testa? L'unica cosa incredibile che posso fare è portarti da loro! Sei l'unica cosa insolita nella mia vita in questo momento. Non ti incoraggerei a fare questo di sicuro. Ma fai orologi, vero? Perché non fai un orologio incredibile? Fare orologi non è incredibile. Ma fare l'orologio più incredibile sarebbe davvero incredibile, non credi? Non penso di poterlo fare, Ciurro. Non lo saprai mai se non ci provi. Questo fece pensare Antonio. Che cosa aveva da perdere? Poteva almeno provare. Antonio finì tutto il suo lavoro e andò a letto. Era buio. Antonio continuava a fissare la sua cassetta degli attrezzi. Era davvero capace di costruire qualcosa di incredibile? Beh, non l'avrebbe mai saputo se non ci avesse provato. Tirò fuori un foglio e disegnò uno schizzo approssimativo dell'orologio che immaginava. E poi iniziò. Forse Ciurro ha davvero ragione. La sua mente fu improvvisamente piena di cose incredibili che poteva far fare all'orologio. Lavorò per ore. Era così eccitato che non mangiò e non dormì per tutta la notte. Il giorno successivo, come deciso, tutta la città affollò il palazzo per mostrare il proprio talento. C'erano combattenti di spada che, combattevano con se stessi più che con chiunque altro. Non è incredibile come riesco a non ferire me stesso? Certo. Prossimo! Posso dormire per mesi e mesi. Oh, sta già dormendo? Padre, dobbiamo aspettare mesi per svegliarlo? Portatelo via, per favore. Sì, giusto. Fatelo rotolare, sarà più facile. C'erano giocolieri annoiati di giocolare con mele e pere e cominciarono così a destreggiarsi con tavoli e sedie. Disperati all'idea di dover dimostrare qualcosa, iniziarono a gigolare con i cortigiani. Non so dire se questa è la cosa più incredibile o meno, ma penso che vomiterò a breve se non si ferma. Ma, Vostra Altezza, volevamo fare il giochino con voi dopo. Oh, che orrore! Il prossimo! Poi entrò Antonio. Si inchinò alla principessa e al re. Sono un orologiaio, Vostra Maestà, e vorrei mostrarvi il mio lavoro. I concorrenti presenti nel palazzo erano già convinti che Antonio avrebbe perso. Dopotutto era un semplice orologiaio. Antonio tolse il tessuto dalla struttura e svelò un orologio dall'aspetto strano. Questo è l'orologio più brutto che abbia mai visto. Perdonatemi, Vostra Altezza, ma con il talento e l'intelligenza si possono ottenere cose che la bellezza non può fare. Vuoi dire che questo orologio è intelligente? Vediamo cosa può fare. Tutto ciò che Antonio fece fu toccare il centro dell'orologio e questo cominciò a ticchettare. Mentre tutti guardavano con ammirazione, l'orologio fece un suono e venne fuori un uomo fatto di legno. La regola numero uno per condurre una vita felice è avere fede. Credi in te stesso e la tua vita sarà completa. Bene, questa dovrebbe essere l'unica regola, se lo chiedi a me. Il pubblico era scioccato. L'uomo di legno rientrò. L'orologio fece due colpi e due ballerini uscirono. Oh, come ballarono e che movimenti! Fu davvero magico. L'orologio fece tre colpi e ne uscirono il sole e la luna e... non quelli veri, naturalmente. La terza ad uscire fu la stella più luminosa del cielo, Sirio, che, vorrei aggiungere, non era poi così seria. Quattro! Quattro! Fai suonare l'orologio quattro volte! E lo fece. Ora, questo era un vero enigma per il palazzo da risolvere. Ne uscirono un tulipano, una cavalletta, un nido vuoto e un cesto di frutta fresca. Aspettate, il tulipano mangia la cavalletta e lo spirito della cavalletta si siede nel nido vuoto e mangia i frutti freschi? Ho risolto il puzzle! Un fiore mangia un insetto innocente e il suo spirito mangia frutta? È spaventoso! So cosa sono! Queste sono le quattro stagioni! Il tulipano cresce in primavera. Sappiamo tutti che le cavallette escono in estate. Il nido vuoto è l'inverno, perché gli uccelli sono già volati via, e il cesto di frutta è l'autunno, per la nostra festa del raccolto. Brava! Quando il puzzle fu risolto, gli oggetti tornarono nell'orologio. L'orologio andò avanti e suonò cinque volte. Un altro puzzle ne uscì. Degli occhiali, un gong, una ciotola di erbe fresche, un piatto di cibo fumante e un piccolo cucciolo. Questi devono essere i cinque sensi. Gli occhiali per vedere, il gong per ascoltare, l'odore delle erbe fresche, il delizioso cibo caldo da gustare e... toccare! Posso toccare il piccolo cucciolo adorabile? Ma non appena il puzzle fu risolto, gli oggetti tornarono velocemente dentro. Nemmeno l'orologio voleva perdere i suoi sensi. Era quasi ora. L'orologio suonò le 6 e un dado, che doveva essere aggiustato, uscì fuori. È rotto! Nessun dado può mostrare solo il numero 6 tutte le volte. Non è rotto, signore. Questa è l'ora sull'orologio. Lo so. Dato che ora erano le 7, 7 bambini piccoli apparvero. Girarono e girarono in tondo e sembravano costretti a ripetere all'infinito una breve filastrocca. Oh, sono così blu. Io forse di più. Abbiamo molto lavoro, Orsù. Siamo giunti alla metà della settimana. Tieni il 13 con me e vedrai come diventa strana. Ultimo giorno, ultimo giorno. Oh, vorrei solo dormire. Bene, grazie a tutti e 6, sono sempre stanca. Oh, sono così blu. Oh no, io non so di più. Questi sono i 7 giorni della settimana. I giorni tornarono dentro pacificamente. La cosa più sorprendente avvenne quando l'orologio batté le 8. Gli 8 pianeti uscirono. Girarono intorno per mostrare quanto bello sia il nostro sistema solare. Il palazzo era incantato. Mentre i pianeti tornavano dentro, arrivò il momento per i 9 campanellini di uscire e presentare un ballo. Il palazzo osservò con gioia i campanellini. L'orologio suonò di nuovo. Arrivarono i 10 consiglieri. Erano così intelligenti che i cortigiani del re temettero per il loro lavoro. Prima che il re potesse dire qualcosa, Grazie a Dio! All'improvviso uscirono 2 bambini. Facciamo un gioco? Sì, 2, 2 e 7. Le 11! Le 11! Segna le 11! Oh, mamma mia! Tutti aspettarono pazientemente, perché era il momento per le 12. L'orologio tremò e si mosse. Giunse una donna anziana. Tutti furono confusi, ma poi iniziò a cantare. Cantò 12 bellissime canzoni con la sua bellissima voce. La sua voce celeste fece sbocciare i fiori e gli uccelli fuori dal palazzo iniziarono a ballare. Era la voce più bella che si fosse mai sentita. Oh, questa è veramente la cosa più incredibile che io abbia mai visto. Sarà mio grande piacere dare mia figlia in sposa ad un uomo di talento come Antonio, l'orologiaio. Tutti nel palazzo furono d'accordo sul fatto che l'orologio fosse la cosa più incredibile. Anche la principessa si era innamorata dell'orologiaio. Proprio mentre il re stava per annunciare la data del matrimonio, no! Ah! Oh, l'orologio era così bello anche mentre veniva distrutto. Fu stupefacente da guardare. La folla rimase lì, incapace di distogliere lo sguardo. Ecco, ho distrutto la cosa più incredibile. Non è incredibile? Questo lo è davvero. Quindi, seguendo la tua regola, sposerò la principessa e prenderò metà del tuo regno, non è corretto? Questo è corretto. Ma padre! Mi dispiace, figlia mia. Una promessa è una promessa. L'intero regno concorda sul fatto che distruggere la bellissima opera d'arte è stata la cosa più incredibile. Non è vero? Sì, ma non in quel modo. Mia cara principessa, la promessa era per la cosa più incredibile, non un particolare tipo di cosa incredibile. Sono pronta a sposarti. Il palazzo era scioccato e triste. Antonio era molto triste. Portò l'orologio rotto nella sua casa buia. Si sedette sul letto, triste, incapace di muoversi. Oh, è terribile! Ah, beh, è il mio destino. Che stupido da parte mia sognare di sposare la principessa. Va bene, ciurro, niente è cambiato. Ho dato del mio meglio. Ah, dovrei andare a dormire. Ma Ciurro non si sarebbe arreso così facilmente al suo amico. Il giorno seguente, la principessa doveva sposarsi con l'uomo che venne chiamato l'incredibile distruttore. Tutto fu preparato, ma nessuno era felice, né la principessa né il re. L'incredibile distruttore entrò nel palazzo con orgoglio e si fermò accanto alla principessa. Mentre tutti stavano lì, a guardare tristemente, la porta del palazzo si aprì con un forte botto. Vostra Altezza, loro stanno arrivando. Chi sta arrivando? Gli spiriti dell'orologio rotto. Era la verità. L'uomo di legno, i giorni della settimana, i pianeti arrivarono volando. Tu pensavi di poter uccidere il talento? Uccidere l'arte? Mettimi giù! Non può farlo, signore! Venerdì, Fallo girare in tondo, proprio come facciamo noi. Oh, mi sento stordito. Oh, e di chi è la colpa? Come puoi pensare che l'arte non abbia un'anima? Facciamolo ballare. Oh, la mia schiena! Va bene, basta, basta! Sono stato stupido a pensare di poter uccidere l'arte. Mi scuso, ti prego, perdonami! Sono d'accordo, ero geloso del fabbricante di orologi. La sua abilità e l'orologio intelligente che ha fatto sono davvero la cosa più incredibile. Mi arrendo! Sì! Antonio! Sì. Oh, qualcuno vada a chiamare il mio Antonio! Vieni, ragazzo mio, ti meriti veramente metà del mio regno! E il mio cuore! Tutti a palazzo si rallegrarono nel vedere la principessa e Antonio riuniti. L'orologiaio ci ha dimostrato che non importa quanto forte e malvagio possa essere un distruttore, il vero talento non può mai essere distrutto. E per quanto riguarda l'incredibile distruttore, beh, sta facendo un ottimo lavoro nel riparare oggetti rotti. Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Cosa è successo? Ho vinto metà del regno e il cuore della principessa? No, non l'hai fatto. La storia è finita. Oh no, aspetta, posso mostrarti la cosa più incredibile. Ah,